ya, fora de Gabu. Ah, fora de Gabu. Oh ya, fora de Gabu. Ah, fora de Gabu. Oh ya, fora de Gabu. Ah, fora de Gabu. Moza, mego pa. Ah, fora de Gabu. Clan del voodoo. Are ci sordi, a chi non li intende li zocchi. Ni manco i più forti, a chi sa niente male amare a sorti. Ah, e cosa ga? Sceni di coppia che fate in caga. Dunia ti è mala, sono fuori di capo, puro pala, niente macca. Non mi deixa futti, ma chi se maledizioni e suoni. C'ha metti lo dottori, a chi mi fozzo fuori l'ugori. Incido palo il culo, e si rompetti le guglioni, pozzo la macumba vudu. E ti ne impara un raio, canto metti lo cani a paio. Chi è sciogo incazzato? Fora di Gabu. Fora di chi su moto come ti caso l'hanno infatto. L'uno mi tiro macco, villaggio e papà. Se non macchina giudica, fora di ga. E un dì è la verità. Oh ya, yeah, fora di Gabu. Ah, fora di Gabu. Oh ya, yeah, fora di Gabu. Ah, fora di ga.